Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Durante il primo incontro sei un'allucinazione sudata su tacchi troppo alti. Non capisci niente. Passi le ore a prepararti, a dare il meglio di te. Ma non sei tu. Quella lì non sei tu. Sei una speranza. Invece all'ultimo appuntamento sei proprio tu. Intera, nuda e svelata. Ben piantata, composta e rigida sulla sedia. Al patibolo. Senza vino di solito. Mi chiamo Simona Angioni, vivo a Milano, lavoro in un'agenzia di pubblicità e scrivo. Quanti di voi in questo momento esatto, alle 16:09 minuti di un martedì qualunque, 25 ottobre, si trovano in uno di quei momenti in cui qualcosa sta per finire? Probabilmente sono molti di più di quanti ne sappiano, nel senso che alcuni si trovano in quella situazione ma non lo sanno. Altri invece ci sono e ne hanno la consapevolezza piena, magari non ne hanno la certezza, però sentono che qualcosa sta per finire. Qualunque essa sia, un lavoro, una relazione, un gioco, ma anche una dinamica semplice, qualcosa che magari non è mai nemmeno partita, però avete la sensazione netta che stia per finire. Adesso, in macchina, sotto la pioggia, in coda, o no, o sulla tangenziale invece, anche a 150 all'ora, magari di meno, magari 130. E quella sensazione lì ce l'avete dentro, anche se non capite esattamente il perché, perché non si spiega quella cosa lì. Semplicemente è proprio una roba come un punteruolo nella pancia, no? Una cosa che ti pizzica e dici, sì, ci siamo quasi ormai, non manca molto. Poi magari saranno mesi, dipende da cosa si tratta, magari invece saranno ore, magari domani, magari dopo, però qualcosa sta per finire. Ecco, quella sensazione lì è una sensazione che in realtà ha un sapore, nel senso che lo senti in bocca, ma in alcuni casi ha anche un odore. Oggi si parla di quella cosa lì, si parla dell'odore che hanno le cose che finiscono e del sapore che rimane in bocca dopo un po'. 349-238-6666 oppure la mail è sempre quella e voi siete qui @radio24.it. Il racconto di oggi parla di una cosa in particolare. Simona ha scritto una storia che ha a che fare con la fine di una relazione di solito e parla dell'ultimo appuntamento, del fatto che quando si è a un ultimo appuntamento e si ha coscienza che sia l'ultimo appuntamento sia importante tutto, ma sia importante anche e soprattutto l'odore che si lascia nel naso della persona che abbiamo di fronte, che è una cosa piccola ma non è una cosa piccola. 349-238-6666. Silvia dice: quando finisce qualcosa mi viene l'orticaria e va bene. Barbara invece ha scritto: al nono mese di gravidanza avevo capito che la mia vecchia vita sarebbe finita di lì a poco. E poi Roberta dice: io nella mia vita sentimentale ho avuto spesso relazioni a distanza e chissà perché in questi casi c'è sempre un giorno, una situazione in cui si sente che quello è l'ultimo incontro, che è l'ultimo bacio o che è l'ultimo abbraccio. E poi Paolo dice: quando il giorno in cui finiscono le cose ne iniziano altre. Grazie Paolo, però se tu mi scrivi così io non ci faccio una puntata, capito? Ho bisogno di roba un pochettino più sostanziosa. 349-238-6666. La storia di Simona è, ripeto, una storia che parla dell'ultima volta che incontri una persona, ma in fondo anche della prima. Crema alla peonia o alla papaya? E no, non è una cosa da poco. È importante. Cambia. Perché se lui mi lascia mentre so di peonia, gli tornerò in mente quando passerà davanti a un fioraio. Se lo fa che profumo di papaya, invece, si ricorderà da me dal fruttivendolo. O in un viaggio, in Messico. Sì, mentre fa colazione davanti al mare. Papaya, più esotico. È importante essere a posto quando si viene mollati. Beh, se lo sai, ovviamente. Se non lo sai, vabbè, lì, come sei, sei. Ma di solito lo sai. Lo sai. Ecco, e io lo so, sta arrivando. Ed è quasi più importante del primo, l'ultimo appuntamento. La telefonata con cui si decide di vedersi ha un tono di un certo tipo. Dobbiamo parlare, ecco, forse anche se uno va a cercare le parole, magari sono tipo, mi sa che dobbiamo parlarci. E poi ovviamente anche il tono con cui viene detto, se è un tono grave. Durante il primo incontro sei un'allucinazione sudata, su tacchi troppo alti. Non capisci niente. Passi le ore a prepararti, a dare il meglio di te, ma non sei tu. Quella lì non sei tu. È normale, eh? Sei un grumo di aspettativa vestita alla zoccola. Sei un encefalogramma piatto con picchi di isteria. Sei quello che pensi dovrebbe piacergli. Al primo appuntamento anche a te piacciono le vacanze in camper e ci credi veramente mentre lo stai dicendo. Perché proprio ti vedi libera, selvaggia on the road, mentre mangi tonno da una scatoletta in un parcheggio del Salento. Lo dici mentre bevi con disinvoltura un litro e mezzo di vino rosso. E ti allunghi tutta verso di lui, tutta storta, perché a parere tuo sei seducente. Invece lui si sta chiedendo, ma perché questa non sta seduta normale? Ma tu non puoi essere normale, perché non capisci niente. Tutto ti sembra possibile al primo appuntamento. Azzeri la tua vita precedente e ricominci da lì, dal camper e dal tonno. E ti dimentichi di esserci andata in camper con uno un'estate e che ti aveva fatto cagare, ma non te lo ricordi. Al primo appuntamento c'è sempre anche un po' di muccino con noi, è normale, non bisogna vergognarsi. Non sei tu in quei momenti, sei una speranza. Invece all'ultimo appuntamento sei proprio tu. Intera, nuda e svelata. Ben piantata, composta, rigida sulla sedia, al patibolo. E di solito senza il vino. È come nei negozi, no? Che magari cioè, si vede la vetrina davanti e poi dietro c'è invece lo sgabuzzino, gli scatoloni, la roba vecchia, le commesse stanche. Però tu fai vedere la vetrina. Al primo appuntamento giochi tantissimo, poi gradualmente smetti di giocare. Ma prima del suo dito sul campanello e della porta che si apre, prima degli occhi che saranno per sempre indimenticabili, per sempre fino al prossimo primo appuntamento, arriva l'odore. L'odore della fine è quello dei cadaveri che sono lì da un po'. Ti toglie il respiro. Se lo mangia, lentamente. Arriva alle narici e va dritto al cuore, spaccando muscoli e nervi saldi. Quando si dice «sento che sta per finire», vuol dire che lo senti nel naso, prima di tutto. Ecco perché è importante essere profumate all'ultimo appuntamento, per contrastare l'assalto, prima del crollo. Quindi, papaya. Dance me to your beauty with a burning. Perché il primo e l'ultimo appuntamento hanno una cosa in comune, ed è quello che Simona chiama azzerare la vita precedente. Che quando incontri una persona che non conosci e ti piace, tu vuoi dimenticare che solo qualche mese prima la tua vita era andata a gambe all'aria perché lui ti aveva detto che non ti amava più. Oppure perché tu lo avevi tradito senza nemmeno sapere il perché. Cerchi di essere lì, solamente lì, in quel ristorante, in quel bar, dove tutto ha colori più vividi, tutto ha dei suoni molto più forti. Ma sì, in fondo ogni nuovo appuntamento è il primo appuntamento della nostra vita. E quando incontri una persona che ti piace, il tuo passato viene cancellato. Le donne che hai incontrato prima, gli uomini che hai frequentato, sono tutti lontani, sfocati, che quasi ti sorprendi di come tu abbia potuto sprecare tutto quel tempo con persone che sembrano dei fantasmi. E per la prima volta dopo mesi, magari dopo anni, finalmente sei lì. E non c'è la giornata di lavoro che è andata storta, e non c'è domani che devi chiamare l'idraulico. C'è solo lui, con quella faccia irregolare e adorabile, che ti guarda mentre ti aggiusti l'orecchino o ti passi la lingua sulle labbra, che si seccano in continuazione. E c'è lei, che invece ha il viso più bello e disegnato che tu abbia mai visto. E devi fare attenzione a non guardarla troppo, perché altrimenti se ne accorge. Ecco, mentre sei lì e ti sembra che il tempo sia più comodo, sia più morbido del solito, all'improvviso inizia a piacerti tutto. Ti piace il suo accento che non è il tuo, ti piace la sua barba incolta o il ciuffo che gli scende sulla fronte. Ti piace addirittura che non abbia accettato il lavoro di cui ti sta parlando, perché non sarebbe piaciuto nemmeno a te. A metà serata poi ti accorgi addirittura che ha un piccolo segno sulla fronte, guarda bene, qua sopra l'occhio destro. Che non capisci se è una cicatrice o una riga della pelle, o forse no, forse è una voglia minuscola. Però adesso che la vedi, quella piccola irregolarità sul viso, ti sembra perfetta. E lei, intorno a quel minuscolo difetto, ti appare ancora più bella, ancora più sensata, ancora più delicata. Ogni primo appuntamento è il primo incontro della nostra vita. E te ne stupisci ogni volta, perché in realtà quel copione lì lo conoscono tutti. Lo sai quasi a memoria, lo sai talmente bene che volendo potresti metterti a sedere, poco prima di uscire. Potresti appoggiarti al tuo divano e immaginare come andrà la storia, come sarà il futuro poi, dietro a quella prima uscita. I weekend insieme, splendidi, memorabili, le vacanze, l'amore, i risvegli la mattina con la sorpresa di trovarlo lì accanto a te. E poi le prime liti, quelle belle, no? Quelle che non ti aspetti, che durano magari un paio d'ore prima di far la pace. Poi le seconde e le terze liti che invece ti piacciono già un po' di meno. Fin giù, verso le cose di lui che prima adoravi e adesso detesti. E allora fai una cosa, eviti di pensarci a quel copione ed esci, perché il primo appuntamento è il più bello e vuoi godertelo senza pensare ai suoi difetti, se ne avrà, e nemmeno ai tuoi, che invece conosci molto bene, e che quella sera eviterai di mostrargli, perché vuoi dare il meglio di te. E qui ha ragione Simona quando dice che dai il meglio di te, ma non sei tu, perché tu non sei il meglio, sì, sei anche quello, ma sei soprattutto il resto. Però quella sera lì, la prima sera, tu vuoi fare una promessa, la vuoi fare a te e a lui, la vuoi fare a lei. È la promessa di essere sempre così, come in quel primo appuntamento, di avere sempre quella voglia, di avere quel sorriso, di avere quel profumo lì. E forse, non lo so, ti aiuta il litro e mezzo di vino, forse ti aiuta il passato che si cancella. Ma mentre sei lì a dare il meglio di te, all'improvviso ti convinci che forse tu davvero, tu così, in quel modo lì, potresti essere sempre. Pensi che quella è una promessa che puoi mantenere, che diventerai migliori anche grazie a lui. Sì, il primo e l'ultimo appuntamento hanno questo in comune. Hanno il presente, che è un presente fortissimo, che è più forte di quello che è stato e di quello che sarà. Hanno in comune la forza delle cose che appartengono a quel presente, le luci intorno, i suoni del locale, la sua voce, la musica che sta girando nell'aria. E poi c'è il profumo. Il profumo che lei ha addosso. O quello che lui invece non ha, perché gli uomini non mettono il profumo, no? Perché hanno un odore che non viene da un'essenza, viene da chissà dove. Ecco, quel profumo lì, tu te lo ricorderai, che sia il primo o l'ultimo appuntamento. L'odore che ti rimane addosso, poi, dopo quel presente così forte, non te lo staccherai più, anche dopo anni. Quando ti sembrerà di averlo dimenticato, basterà una colazione davanti all'oceano in Messico. E anche a distanza di anni, il sapore di papaya o di peonia ti farà tornare là, dove non sei più, da un sacco di tempo. Sapessi che felicità mi dà. Sarà che sono un uomo, probabilmente è per quello, è perché sono un maschio, che questa cosa del profumo o dell'odore non l'ho mai... non è che non l'abbia mai percepita, semplicemente non ci avevo mai pensata, cioè non avevo la consapevolezza del fatto che un odore potesse o meno cambiare la sensazione che avevi di un incontro con una persona, figuriamoci dell'ultimo incontro con una persona. Pronto, Simona? Sì, pronto. Ciao, come stai? Ciao. Bene, grazie. Senti, innanzitutto grazie mille per il tuo racconto, che è bellissimo e che racconta un piccolo pezzo di vita che è capitato, credo, a tutti, nel senso che poi non tutti magari avevano la coscienza che quello fosse l'ultimo incontro, però in qualche modo quella cosa lì della sensazione che hai quando ti trovi davanti a una persona e percepisci che è l'ultima volta, credo che sia una cosa che hanno vissuto tutti. Tu quando è che l'hai vissuta l'ultima volta questa cosa? Sì, proprio... in realtà quella storia lì che ho scritto, quella volta lì era... Ma quindi quanti anni fa erano? Erano quasi 4 anni fa. Ti ricordi il suo di odore oppure ti ricordi solo il tuo? Ma mi ricordo più che altro l'odore che c'era nell'aria, che era un misto di noi due. Era un odore un po' di chiuso. Senti, invece il primo incontro, cioè qual è la differenza tra l'ultimo e il primo? Nel senso che il primo è una roba che non fa testo, no? Perché, che è vero, perché siamo sempre un po' sopra quello che siamo probabilmente al primo incontro. Però qual è stato il miglior primo incontro che ti ricordi della tua vita? Tutti i primi incontri, quando incontri qualcuno di interessante di qualunque genere, poi non soltanto amoroso, è una sorpresa. Cioè vale la pena uscire soltanto per incontrare qualcuno. Senti, che lavoro fai? Siamo quelli che sono più inaspettati, che ti chiedono, ti aspetti che siano in un certo modo, quindi parti un po' disillusa, che magari dici preferivo stare a casa a guardare un film, e invece poi ti stupiscono lentamente, no? Invece che quelli che subito... Perché il film è sempre il piano B, il film, no? Cioè vabbè, male che vado a casa e faccio ancora in tempo a guardarmi quel DVD. Beh, se sai scegliere un buon film, i film le persone interessanti ci sono sempre, quindi... Che lavoro fai tu, Simona? Lavoro in un'agenzia di pubblicità, faccio la copyright. Fantastico, io mi stupisco ancora che esistono le agenzie di pubblicità, è incredibile. Sì, anch'io, mentre lo faccio. Dimmi qual è l'ultima roba che hai scritto invece per la pubblicità, cioè non facciamo il nome, però che so io, che tipo di prodotto o servizio? Era un gioco, uno di quei giochi che ti fa vincere un sacco di soldi se vinci, ma che è molto difficile vincere. Ah no, non è un gioco per bambini, è un gioco d'azzardo? No. Sì, è un gioco da adulti, sì, non si può giocare sotto i 18 anni, però è legale. Senti, quindi tu sei abituata a scrivere in realtà? Sì, anche se quando ho iniziato a lavorare in agenzia di pubblicità pensavo si scrivesse molto di più, che avesse molto più a che fare con la scrittura, in realtà più a che fare con le idee. Però vabbè, dal tuo racconto si capisce che sei abituata, no? Alla... Ah sì, io lo faccio proprio sempre, di continuo, mi salva la vita, come dico. Senti, sì. Poi ti lascio andare, davvero. Sì. L'ultima cosa che volevo chiederti è che leggendo il tuo racconto si percepisce una capacità analitica molto profonda. Questa cosa qua, del guardare le cose da fuori e del raccontarle, è una cosa, come dire, che ti ha mai creato dei problemi? Cioè il fatto che nel momento in cui hai voglia di raccontare quella cosa molto difficile starci dentro, no? E quindi cioè, è come se ti guardassi da fuori. Questa abitudine alla scrittura ti ha portato, ad esempio, in un ultimo incontro, ma anche no, in qualsiasi occasione che ti sia capitata, che poi hai raccontato, ti ha portato a non starci troppo dentro? Sì, sì, sì, è utile, non è... Non è dannosa. No, per me è utile. È utile perché faccio chiarezza. Okay. E mi piace. Okay. A posto così. A posto così. Okay. Simona, ti ringrazio moltissimo. Grazie ancora per il racconto e per la chiacchierata. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao. 349-238-6666. Adesso la borsa e poi voi siete qui. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Simone è su una spiaggia. È fuori stagione, però. O è fuori stagione oppure al tramonto e fa un po' fresco, perché è su un maglioncino e sta guardando l'orizzonte. Però non sta guardando l'orizzonte tipo che cosa ne sarà domani di me. Secondo me l'espressione che ha, che è divertita e anche un po' stizzita, è semplicemente la coda dell'espressione che hanno moltissime donne quando stanno dicendo ti prego basta con questa foto. Ecco, quando arriva questa parte del programma, diciamo, noi cerchiamo di riempirla con qualcosa che abbia a che fare più o meno col racconto che è stato il protagonista di questa puntata. E mentre ci ragionavamo con Tiziano e Margherita l'altro giorno, dicevamo, bisognerebbe trovare qualcosa che racconti proprio quella consapevolezza lì del momento in cui le cose stanno per finire, no? E non era facile, ci siamo rimasti su, credo, forse 2 ore? Forse un po' di meno. Però forse un po' di meno, 20 minuti. E poi non volevamo disturbarlo perché stava lavorando, però ho detto abbiamo bisogno di un parere di qualcuno che abbia una cultura abbastanza ampia e che non sia solo per forza letteraria o cose. E quindi siamo andati da Alessandro Marco Tulli, che tutti gli ascoltatori conosceranno perché è autore assistente di Oscar Giannino al programma 9 in punto. Niente, gli abbiamo detto proprio così, Alessandro, ti viene in mente per caso qualcosa che racconti di quel momento lì, di una persona che è consapevole che qualcosa stia per finire? Lui stava scrivendo, stava lavorando perché stava preparando la puntata del giorno dopo, forse quella anche del giorno, lui si porta avanti, prepara quella di 2 giorni prima e ci ha detto, come no, c'è sta una cosa che si chiama Er Testamento de Trotsky. Questa cosa del testamento di Trotsky non ha nulla a che fare con quello che state immaginando, anche perché non potrei farlo in questa radio, ovviamente, se non per il fatto che è semplicemente in punto di morte, anzi qualche mese prima di morire, perché adesso vi dico di quand'è. Ecco, tenerlo sotto mano sarebbe... Eccolo qua. Trotsky muore il 21 agosto del 1940 e questo testamento lo scrive il 27 febbraio del 40, quindi... 6 mesi prima. È un pezzo di letteratura molto piacevole perché racconta di alcune cose che riguardano la sua vita, in particolar modo però ne racconta di una, racconta della moglie. Lui è stato ucciso a Città del Messico, questo invece è stato scritto credo in un'altra parte, Marco Tulli non lo sa, è là di là dal vetro ma non ha idea, comunque sia, è proprio, effettivamente ci sono poche cose, pochi attimi di lucidità e di consapevolezza come questo, come diciamo la stesura di un testamento, no? Per cui non so quanti di voi l'abbiano mai scritto un testamento. Se c'è qualcuno all'ascolto che ha già scritto il proprio testamento, 349-238-6666, anche una roba abbozzata e non per forza che è nato da un notaio, si va dai notai a scrivere il testamento, da un avvocato, da un notaio, credo da un notaio, non per forza che siete andati dal notaio e gli avete lasciato 500 euro, se ha voglia 500 euro, almeno 1500 euro per un testamento, se l'avete anche solo veramente degli appunti, voglio lasciare questo a questo, oppure grazie per aver fatto così, così, cos'ha, 349-238-6666, questo invece è il testamento di Trotsky. Non ho bisogno di confutare ancora una volta le stupide e vili calunnie di Stalin e dei suoi agenti. Non v'è una macchia sul mio onore rivoluzionario. Ringrazio con tutto il cuore gli amici che mi sono stati fedeli nei momenti più difficili della mia vita. Non ne nomino nessuno in particolare perché non posso nominarli tutti. Mi ritengo tuttavia nel giusto facendo un'eccezione per la mia compagna, Natasha Ivanovna Sedova. Oltre alla felicità di essere un combattente per la causa socialista, il destino mi ha dato la felicità d'essere suo marito. Durante i circa 40 anni di vita comune, ella è rimasta per me una sorgente inesauribile d'amore, di generosità e di tenerezza. Ha molto sofferto, soprattutto nell'ultimo periodo della nostra esistenza. Mi conforta tuttavia, almeno in parte, il fatto che abbia conosciuto anche giorni felici. Per 43 anni della mia vita cosciente sono rimasto un rivoluzionario. Se dovessi ricominciare tutto da capo, cercherei naturalmente di evitare questo o quell'errore, ma il corso della mia vita resterebbe sostanzialmente immutato. Natasha si è appena avvicinata alla finestra, quella che dà sul cortile, e l'ha aperta in modo che l'aria entri più liberamente nella mia stanza. Posso vedere la lucida striscia verde dell'erba ai piedi del muro e il limpido cielo azzurro al di sopra del muro e sole dappertutto. La vita è bella. Possano le generazioni future liberarla da ogni male, oppressione e violenza. E goderla in tutto il suo splendore. Allora, io l'ho fatto a 21 anni, un testamento olografo, era un venerdì 17, Claudio da Roma. Olografo è fatto da sé, a mano, giusto? Lavoro in banca e leggo un sacco di testamenti, uno in particolare mi ha colpito, Ruggero, però non ci dice il perché, quindi vale come niente. Io l'ho scritto, Antonello, 50 anni, per i figli, ne ho tre, due dal primo matrimonio e uno dal prossimo. Come uno dal prossimo? Nel senso che si sposerà... No, nel senso che si sposerà e già un figlio. Se no, uno dal prossimo. E poi ce n'era un altro. Ho lasciato tutto a uno solo dei miei fratelli. Lui sa che è sotto la teca del violino. Stefano. E poi c'è un messaggio che veramente mi strappa il cuore a metà. Vorrei raccontare la mia storia. È già uno che comincia con vorrei raccontare la mia storia perché proprio ne sente il bisogno. Fine di una relazione. E tra una settimana ultimo appuntamento. Dio che ansia. Cioè, nel senso che c'ha una settimana per pensarci. E tra una settimana ultimo appuntamento. Lei di punto in bianco non vuole più sentirmi. Dopo tre anni io sto malissimo e non capisco. Guarda, neanche noi capiamo, sinceramente. A me sta per finire la batteria del cellulare. Grazie. Ho appena finito un mese di vacanza? No. C'è un messaggio. L'odore del sesso ha sempre qualcosa a che fare con la fine. Tutto finisce e poi tutto ricomincia. E mia moglie mi appare così una nuova cima da scalare ogni volta, anche dopo 10 anni. E pensa, non devono neanche ricorrere allo scambismo. Ciao Matteo, sento che sta per finire la voglia o la passione di andare in moto. Ti accorgi a 35 anni dopo aver girato per 14 in moto che forse è un po' troppo rischioso. E in questi momenti forse è più facile immaginarlo. E poi è arrivato un messaggio, questo lo leggo proprio per tirarci... No, non ce la faccio. Sì, ce la faccio. Claudia dice: fino a meno di 2 settimane fa collaboravo con altri 10 ragazzi in una società privata che andava a gonfie vele. 10 trentenni pieni di sogni e speranze, riposti in un contratto a tempo indeterminato che tra un caffè e una sigaretta avevano tirato su un progetto, l'avevano realizzato e nonostante le difficoltà lo nutrivano per farlo crescere giorno dopo giorno. Poi un bel dì, mentre stavano per andarsene dall'ufficio, viene comunicato senza spiegazioni che all'indomani sono in ferie forzate e che, esaurite le ferie, in cassa integrazione. 3 anni di lavoro e di rapporti sociali eliminati con un colpo di spugna. I miei colleghi sono nel limbo. In questo periodo sono nel limbo. Si stanno, diciamo così, godendo le ferie, mi dicono, cercando di sdrammatizzare. Si chiude un'epoca, e ancora non ci credo. Un periodo in cui, quando sentivo le voci di crisi alla TV, pensavo che noi fossimo davvero fortunati o semplicemente bravi. Non finisce solo una stagione bellissima e ricca della mia vita, finisce anche un po' la stupida speranza che chi è bravo ce la possa fare. Grazie a te, grazie a Paolino Corleone, a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e oggi soprattutto ad Alessandro Marco Tulli. La storia di oggi era la storia di Simona e parlava del sapore delle cose che finiscono. Quella di domani invece è la storia di Laura e racconta di quando ci si smarrisce. Non posso sapere quanto tempo trascorsi in quella condizione. Forse un rumore da qualche parte mi distrasse. Allora presi il cellulare e constatai che non riceveva alcun segnale. Fino a qualche anno prima non me ne sarei nemmeno accorta, ma in questo caso la tecnologia mi fece rendere conto di che cosa era successo. Semplicemente mi ero persa.